Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Francesca Filiasi. Oggi Destini incrociati ci porta in Venezuela, la piccola Venezia. Chiamata così da Amerigo Vespucci, che giunto in questa terra in uno dei suoi viaggi, rimase affascinato dalle palafitte degli indigeni che vedeva sorgere dalle acque trasparenti del golfo omonimo. Al tramonto, quelle decine di fragili costruzioni in legno gli devono essere sembrate non meno magiche e affascinanti dei palazzi affacciati sul Canal Grande. Da allora il Venezuela è diventato patria di migliaia di uomini che hanno visto in questa terra meravigliosa la possibilità di un futuro diverso, migliore. L'incredibile natura del paese, che combina ricche pianure con i deserti, la giungla tropicale con gli altopiani andini, ha saputo offrire generosamente opportunità e riscatto agli uomini in fuga da un'Europa martoriata da guerre e povertà. Eppure il Venezuela non è una terra facile. Nonostante sia il settimo paese produttore di petrolio nel mondo, la percentuale di persone che vivono sotto la soglia di povertà sono ancora oggi più del 30%. E alla povertà sono purtroppo legate spesso la delinquenza, la droga, l'abbandono. Ma come abbiamo appena detto, quella che vogliamo raccontare oggi è una storia di riscatto, di crescita, nata da una piccola, grande rivoluzione. José Antonio Abreu è il nipote di uno dei tanti immigrati approdati in Venezuela alla fine dell'Ottocento. Un italiano che dirigeva la banda dell'Isola d'Elba. Nato nel 1939, Abreu si laurea in economia e per un certo periodo insegna anche all'università e partecipa al governo venezuelano fino a diventare ministro della cultura. Ma Abreu ha un'unica vera passione: la musica. La musica però in quegli anni in Venezuela è appannaggio dei ricchi e di chi può accedere facilmente alla cultura. Così Abreu pensa a un progetto sociale per poter avvicinare i bambini poveri alla musica. E con una piccola sovvenzione dello Stato, nel 1975, inizia a insegnare ai bambini dei barrio, i quartieri più poveri della città. Nasce così El Sistema. Ecco come ce lo racconta Abreu. Es decir, es un programa de rescate social. È un programma di aiuto sociale e di trasformazione culturale profonda per tutta la società venezuelana, senza alcun tipo di distinzione, ma con speciale enfasi verso i settori più vulnerabili e deboli della società. Dal 1975, il sistema di Abreu in Venezuela ha salvato fino ad oggi più di 250.000 bambini dalla strada, inserendoli in un programma di studio della musica e degli strumenti, congegnato in modo tale per cui i ragazzi più grandi insegnano a quelli più piccoli, in un continuo passaggio di responsabilità e di conoscenze, dove nessuno può sentirsi inferiore. Oggi possiamo dire che l'arte non è più monopolio dell'elite in America Latina, ma è diventata un diritto sociale del popolo, di tutto il popolo. Così Abreu viene chiamato nel suo paese Papà Dio e considerato un mito vivente. Il suo sistema pedagogico musicale è riuscito ad attraversare indenne 35 anni di governi venezuelani, da quelli più conservatori a quello di stampo socialista democratico dell'attuale presidente Hugo Chavez, uno dei principali sostenitori del sistema di Abreu, che oggi finanzia nella sua quasi totalità. Tutti i bambini passati attraverso il sistema sono in qualche modo figli di Abreu. Nel corso degli anni, però, il Papà Dio di tutti i venezuelani ha trovato fra i suoi allievi un figlio più vicino e più caro al suo cuore, un ragazzo dal volto sempre sorridente, che grazie all'energia incontenibile, come i suoi riccioli scarmigliati, si rivela presto un ragazzo speciale e il primo protagonista della nostra storia. Io sono un prodotto del progetto. La voce che abbiamo appena sentito è dunque quella di un prodotto. Ma si tratta di un prodotto raffinatissimo, che grazie al sistema di Abreu è oggi considerato uno dei più promettenti e rivoluzionari direttori d'orchestra in tutto il mondo. Un prodotto da esportazione dal nome Gustavo Dudamel. Gustavo Dudamel. Barquisimeto è una città dell'entroterra venezuelano soprannominata Ciudad Crepuscolar per i famosi tramonti che incendiano le colline intorno. Ma Barquisimeto è anche chiamata la capital musical del Venezuela, perché è qui che convergono la maggior parte delle bande e delle orchestre di musica tradizionale. È facile, quando si gira fra le sue piazze e i piccoli parchi, incontrare artisti locali prodursi in virtuosismi, regalando ai passanti qualche minuto di salsa dal ritmo irresistibile. Destini incrociati sono i primi anni Ottanta. Oscar Dudamel suona il trombone in una delle tante formazioni di salsa del suo paese, il Venezuela. Non si fanno molti soldi con il trombone e i figli di Oscar vivono con i nonni. Nonostante le difficoltà economiche, l'atmosfera in casa è gioiosa, serena. Il piccolo Gustavo, in particolare, fra tutti i fratelli, è un bambino che mette allegria. Sprizza energia da tutti i pori e la riversa nell'amore per la musica, tanto da voler seguire tutti i concerti del padre, nella speranza un giorno di seguirne le orme. Ho iniziato a studiare musica che avevo 4 anni e credo di aver sempre voluto essere un musicista. Ma quando prova a maneggiare lo strumento del padre, tutti si rendono conto che non ha il physique du roll. Il mio braccio era troppo corto ed ero molto triste. E quindi iniziai a studiare il violino. Gustavo abbandona il trombone, ma entra lo stesso nel sistema di Abreu. Come a tutti i bambini prima di lui, viene subito messo in mano uno strumento, perché da subito si prova a suonare insieme, a condividere il piacere della musica. Ed è attraverso questo piacere che il sistema riesce a veicolare anche tutti gli altri aspetti psicopedagogici del progetto, secondo José Antonio Abreu. La musica si costituisce in fuente di sviluppo delle dimensioni del essere umano. La musica diventa fonte di sviluppo della dimensione dell'essere umano, che eleva la sua condizione spirituale e lo conduce verso uno sviluppo integrale della sua personalità, in modo tale che i benefici intellettuali ed emotivi sono enormi. Per i ragazzi di strada venezuelani, la musica ha davvero un potere enorme. Quando il destino sembra segnato, quando la vicinanza con il disincanto, l'abiezione, l'abbandono sembrano non promettere altra strada che quella verso la delinquenza, la musica diventa veramente un passo reale verso la libertà, verso una vita migliore. Gustavo Dudamel è uno delle migliaia di ragazzi che con la musica ha conosciuto la speranza, la possibilità di cambiare il proprio destino, di trovare una strada. The music saved me. La musica mi ha salvato, sono sicuro di questo. Con tutte queste cose brutte che ci sono intorno, tu sei esposto direttamente a tutto ciò. La musica mi ha dato un modo di restare molto lontano da queste cose. Gustavo impara a suonare il violino, ma il destino con lui è stato prodigo. Nonostante la sua bravura con l'archetto, è un altro il suo dono musicale. Dudamel ha 5 anni, quando la nonna Ingrassia gli regala dei soldatini, come a ogni bambino che si rispetti. Ma Gustavo non è come gli altri. Il più delle volte i suoi soldatini li allinea in più file, una dietro l'altra, e con una bacchetta trovata in casa passa le giornate a dirigere i giocattolini, mentre sul giradischi del nonno suonano i suoi concerti preferiti. E quando secondo lui qualcuno sbaglia, allora ferma il disco, dà al minuscolo soldatino istruzioni precise su come vuole che venga suonata la battuta, e poi rimette la puntina sul vinile, provando e riprovando, fino a quando il risultato non è quello che piace a lui. I soldatini in genere gli obbediscono. A 12 anni Gustavo diventa primo violino dell'orchestra giovanile della sua città, la Amadeus, diretta dal maestro Jiménez, uno dei maggiori promotori del sistema di Abreu. Un giorno il maestro è in ritardo per le prove e Gustavo per gioco prova a dirigere i suoi compagni. Quando Jiménez arriva, scopre con suo grande stupore che l'orchestra se la cava benissimo anche senza di lui. Dal fondo della sala, Jiménez osserva Gustavo in silenzio, ammirando la sicurezza e l'autorevolezza con cui il ragazzino conduce i suoi compagni attraverso la partitura. È una rivelazione. La sera stessa, il direttore chiama José Antonio Abreu per segnalargli Gustavo e dal giorno dopo promuove il ragazzo a suo assistente. Abreu ha incontrato tanti ragazzi nei suoi 35 anni di lavoro e ha un fiuto che gli permette di riconoscere subito il talento quando ha la fortuna di incontrarlo. Così negli anni a venire segue Dudamel con attenzione fino a quando non lo ascolta, a 17 anni, dirigere con assoluta maestria l'orchestra di Barchisimeto. Così decide di parlare con i nonni di Gustavo. Il suo futuro è altrove. Ci disse di dover portare Gustavo a Caracas. Piangemmo molto, ma non potevamo dirgli di no. Mio marito gli rispose che stava portando via la luce dalla nostra casa. È a Caracas che Gustavo deve proseguire la sua formazione musicale. La piccola orchestra di Barchisimeto non basta più a forgiare lo straordinario potenziale del giovane. E dopo meno di un anno di lavoro nella capitale, Abreu sente che Gustavo è pronto a dirigere la sua prima importante formazione, l'Orchestra Giovanile Nazionale Simón Bolívar. Il progetto che Abreu ha in mente per il suo pupillo prediletto è ambizioso. Un tour in Italia della Simón Bolívar con in programma la prima sinfonia di Mahler. Per Abreu è una prova importante, perché vuole che Gustavo diventi il portavoce del sistema all'estero. Per Dudamel si tratterebbe della prima conduzione di alto livello, ma soprattutto per lui è la prima volta nel vecchio continente. Per ogni appassionato di musica, l'Europa è la culla dei più grandi compositori, da Bach a Mozart, da Beethoven a Verdi a Schoenberg, e anche di direttori d'orchestra, diventati famosi quasi quanto i nomi precedenti. Basti pensare a Arturo Toscanini, Wilhelm Furtwängler, Bruno Walter, Herbert von Karajan e Leonard Bernstein. Uomini che hanno fatto la gloria di grandi orchestre come la Berliner Philharmoniker, la Wiener Philharmoniker o la Scala di Milano. Sono nomi che possono spaventare, mettere in soggezione, ma non per Gustavo. C'è un segreto importante dietro la serenità con cui Dudamel sembra affrontare l'incontro con la realtà accademica, una forza che sta alla base del progetto ideato da José Antonio Abreu. Ho studiato musica da quando ho 4 anni e da quel momento è come se io fossi entrato in una famiglia. E questa famiglia mi ha insegnato molte cose, non solo musicali, quanto quelle cose che dovrò affrontare nella vita, ed è questo il motivo del successo del sistema. Quello che colpisce in Dudamel è dunque questa tranquilla sicurezza che lo rende capace, una volta appresi con cura e dedizione la partitura e i segreti di direzione dei maggiori artisti europei, di saper mettere da parte l'opera passata e ricostruire il concerto o la sinfonia come se fossero appena state create, con uno slancio e un senso di libertà a cui il pubblico e i musicisti del vecchio continente non sembrano essere preparati e da cui restano favorevolmente travolti. Quando nel 1999 Dudamel approda in Italia insieme all'orchestra giovanile Simón Bolívar, è come se portasse con sé l'entusiasmo e la convinzione di un futuro migliore propria del suo paese natale. E a lui accorrono, come assetati desiderosi di una nuova fonte di acqua fresca, non solo il pubblico, ma anche i maggiori direttori d'orchestra del momento, che guardano a Dudamel e al Venezuela come alla loro terra promessa. Se qualcuno mi chiedesse dov'è che oggi sta succedendo qualcosa di veramente importante per il futuro della musica classica, io semplicemente risponderei: in Venezuela. Sono le parole dell'attuale direttore dei Berliner Philharmoniker, l'inglese Simon Rattle, uno dei primi a rimanere colpito dalle capacità di Dudamel, insieme a Daniel Barenboim, Lorin Maazel e all'altro protagonista della nostra storia di oggi. Forse il più importante fra questi direttori d'orchestra, sicuramente colui che si rende conto per primo della dirompente forza rivoluzionaria del sistema del maestro Abreu e del suo massimo interprete, Gustavo Dudamel. Questo personaggio va addirittura in Venezuela per incontrare Dudamel nel 1999. Una volta giunto a Caracas, tocca con mano lo stato di grazia della musica classica nel paese e quello che il lavoro di Gustavo sta realizzando. Sotto l'egida del sistema Abreu, Dudamel e i suoi collaboratori riescono a strappare i ragazzi delle classi più disagiate da un destino fatto di miseria, delinquenza e prostituzione. Dalle parole e dall'entusiasmo di questi grandi della musica scopriamo dunque l'incredibile. Il Venezuela, terra dalle mille contraddizioni, segnata negli ultimi anni da un'escalation di violenza e degrado, offre al vecchio continente un nuovo modello di educazione musicale. Un modello che è riuscito, allontanando i ragazzi meno fortunati da un destino segnato, ad avvicinare nuove leve di incredibile energia al mondo ormai invecchiato della musica classica. Oggi in Venezuela ci sono più di 150 orchestre giovanili e 140 infantili. Sono ragazzi che, come Gustavo, si sentono liberi di sovvertire gli schemi, perché a loro volta sono stati liberati grazie al sistema di José Antonio Abreu dallo schema imperante che rende la cultura inaccessibile alle classi povere. E quando si è ignoranti, è come essere invisibili. Lo más miserable. La cosa peggiore, più tragica della povertà, non è la mancanza del pane o di un tetto, ma di non essere nessuno, di non sentirsi nessuno. El no ser nadie. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati si parla di riscatto, di impegno sociale e soprattutto di musica. Musica classica che nella vita dei due protagonisti del nostro racconto diventa vero e proprio strumento rivoluzionario. Il primo è Gustavo Dudamel, il giovanissimo direttore venezuelano che grazie al Sistema, un progetto pedagogico musicale messo a punto nel suo paese nella metà degli anni 70, è riuscito a diventare uno dei più interessanti fenomeni musicali del momento. Il Sistema, che ha salvato centinaia di migliaia di ragazzi che avrebbero potuto perdersi per le strade violente dei barrio, ha anche attirato, grazie alla trascinante personalità di Dudamel, l'interesse del secondo protagonista della nostra storia, un uomo che da sempre ha cercato di spostare i confini della sua musica per portarli al di là della mera riproduzione di note e renderla uno strumento di conoscenza e di miglioramento esistenziale. Io sono sempre contrario ai limiti, ai confini, alle barriere, quelle che sono. Più si conosce, più si conosce delle varie culture, delle varie religioni, e più si capisce. La voce che avete appena sentito è quella di un uomo che dalla sua carriera di direttore d'orchestra ha avuto tutto, onori, fama mondiale. Eppure quell'uomo ha saputo guardare oltre i fasti della gloria e interessarsi agli altri con una generosità difficile da eguagliare. Il suo nome è Claudio Abbado. Claudio Abbado. Ma com'è che si arriva ai vertici del mondo musicale mondiale? Io ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia musicale, con mio padre che era violinista, mia madre che suonava il pianoforte e ci ha insegnato i primi rudimenti, ma insomma i tri di Beethoven, di Brahms, di Schubert, sono i primi ricordi proprio da bambino piccolo. Il papà di Abbado è un noto violinista e vice direttore del Conservatorio di Milano. La madre è la figlia di un eccentrico studioso palermitano che influisce in modo determinante sulla mente del giovane Claudio, un libero pensatore aperto a culture e religioni di tutto il mondo e che indirizza il nipote verso l'accettazione di pensieri diversi, la condivisione del sapere, l'importanza della conoscenza. La famiglia, dunque, non solo avvia Abbado verso lo studio della musica, ma gli trasmette la convinzione che la cultura è arricchimento, opportunità, evoluzione. Una lezione che Claudio impara in modo profondo e indelebile. Ma studiare musica non vuol dire diventare un musicista di talento, a meno che non si rimanga folgorati da un evento straordinario come un concerto alla Scala condotto dal grande Antonio Guarnieri, il successore di Toscanini alla direzione del Teatro Scaligero. A 7 anni ho visto una cosa magica alla Scala con Antonio Guarnieri e ho deciso di realizzare un giorno questa magia. È il 1940 quando Abbado capisce quale sarà la sua strada. È l'anno in cui l'Italia entra in guerra e la magia sembra lasciare il posto alla paura, alla bruttezza, alla morte. Ma a casa Abbado la dignità e l'impegno non conoscono soste. Negli anni della guerra la madre di Claudio nasconde ebrei e partigiani, mentre il futuro direttore d'orchestra mantiene vivo uno spirito rivoluzionario scrivendo «Viva Bartok», il nome del famoso compositore ungherese, sui muri di una Milano occupata dai nazisti. Amarramau, amarramau, fan le mice in coro. Amau, perché sei morto, pane e vino non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu. A guerra finita, Claudio prosegue i suoi studi al conservatorio. Pianoforte, composizione e direzione d'orchestra. Ma presto capisce che gli si impone una scelta. È stato molto difficile quando avevo 20-21 anni, dove rinunciare, non so, suonavo il pianoforte o componevo e dirigevo. Ho detto, beh, qui a me piace approfondire cose, cerchiamo di scegliere. Allora ho dovuto scegliere una strada e abbandonare le altre, abbandonare, insomma, lasciare. La scelta cade sulla direzione d'orchestra. In breve tempo, con il trasferimento a Vienna, dove può seguire da vicino direttori come Bruno Walter ed Herbert von Karajan e vincere prestigiosi premi internazionali, Abbado si fa conoscere come uno dei giovani più interessanti del panorama musicale a cavallo fra gli anni 50 e 60. Von Karajan lo invita a dirigere i Wiener Philharmoniker al Festival di Strasburgo e da allora una serie di successi lo portano nel 1969 a entrare a soli 35 anni al Teatro alla Scala come nuovo direttore musicale. L'arrivo di Claudio Abbado alla Scala segna una grande rivoluzione, o forse il frutto di una più vasta rivoluzione che si sta compiendo nel mondo intero. Il vento del rinnovamento soffia in Europa, ovunque si avverte il bisogno di ringiovanire le fila dell'establishment, non solo politico, ma anche culturale, per avvicinarlo alla gente, alle persone comuni. Lo sforzo di Claudio Abbado sarà proprio quello di aprire la Scala non solo a nuovi autori più contemporanei, da Schoenberg a Stockhausen, a Mahler, ma soprattutto aprire le porte di un tempio dell'élite a fasce sociali fino ad allora escluse dalla cultura accademica. Ho cominciato a fare concerti nelle fabbriche, all'Innocenti, alla Necchi, in altri posti, a Cinisello, a Sesto San Giovanni, e sempre c'è stato un entusiasmo fantastico, nuovo, insomma, calorosissimo di questo pubblico di operai, non di operai, insomma, di lavoratori di qualsiasi ceto. E la nostra intenzione naturalmente è di continuare a incrementare questi concerti, queste opere che vorremmo portare in regione. Già per adesso si fa qualcosa, però naturalmente ci vuole un'iniziativa non solo della Scala, ma di tutta la regione. È un'intervista che Abbado realizza nel 75 e che mostra un uomo già profondamente sensibile alle tematiche sociali, al potere salvifico della musica per la gente di ogni ceto. Se ci si fa attenzione, sono parole che ricordano molto le idee alla base del progetto che sta vedendo la luce proprio in quegli anni dall'altra parte del mondo, in quel Venezuela afflitto da povertà e violenza in modo molto peggiore che in Italia. Alla Scala Abbado porta negli anni in cui ne è direttore musicale nomi come Bernstein, Solti e Karajan, registi come Luca Ronconi e Franco Zeffirelli, musicisti di valore come Maurizio Pollini. L'epoca di Abbado alla Scala non è fatta solo di lodi. Da molti angoli si levano anche forti critiche. La complessità di alcuni compositori scelti in cartellone crea qualche scontento fra gli abbonati di vecchia data. Le iniziative aperte ai lavoratori vengono considerate antieconomiche e l'idea, vissuta come troppo innovativa, di una lenta ma decisa trasformazione del teatro in una realtà culturale più ampia e complessa al servizio della città, alla lunga sfilacciano il rapporto di fiducia fra il direttore e l'ente scaligero. Dopo quasi 20 anni, nel 1986, Claudio Abbado lascia la direzione della Scala a Riccardo Muti, scelto per rassicurare l'ente con una direzione più accorta e conservatrice. Sono i famosi anni della Milano da bere. Questa Milano da vivere, da sognare, da godere. Questa Milano da bere. Stranamente, la Milano di quegli anni, anni in cui la città è al massimo del suo fulgore, del suo slancio vitale ed energetico, del benessere economico, è una Milano meno attenta verso le innovazioni e la cultura, meno generosa verso chi non è riuscito a inserirsi nelle fila del nuovo piccolo esercito di yappi che percorrono a grandi falcate le strade della città. Anzi, lo yappi, vale a dire la figura del giovane uomo d'affari rampante fra i 25 e i 35 anni, che nasce dalla New York degli anni di Wall Street, a Milano diventa icona di un mondo rutilante, interessato solo all'apparenza e all'ostentazione della ricchezza, preoccupato solo di godere il più possibile senza pensieri. Uno stile di vita lontano mille miglia dal carattere e dall'indole di un uomo come Claudio Abbado. Claudia Abbado ha la virtù della leggerezza da un punto di vista umano, nel senso di discrezione, di silenzi, di mancanza totale di egocentrismo, narcisismo e atteggiamenti divistici. Il giudizio della giornalista Leonetta Bentivoglio si basa su una lunga conoscenza con Abbado fin dagli anni Ottanta, quando ha iniziato a scriverne per le pagine della Cultura e Spettacolo per uno dei maggiori quotidiani nazionali. Le sue parole mostrano un uomo che difficilmente può legare con il modello in quegli anni imperante in Italia e dunque non resta altra scelta che migrare verso lidi diversi. Ad accogliere il maestro Abbado nel 1989 sono i Berliner Philharmoniker, l'orchestra più prestigiosa al mondo. La totalità dei membri lo elegge direttore artistico. Lo stile di vita tedesco meglio si avvicina al carattere di Abbado, che in Germania ha molti amici e sostenitori, come il famoso attore feticcio di Wenders e Herzog, Bruno Ganz, che lo descrive così. Io vedo incarnato in Claudio un certo tipo di nobiltà maschile italiana, con un quid in più che non fa parte dell'Italia, quella certa riservatezza che aggiunge nobiltà a nobiltà. Il sodalizio fra Abbado e Berliner è perfetto. È fatto di rispetto reciproco, amore per la musica, disciplina e capacità di approfondimento. E si protrae fino al 2002, anno in cui inspiegabilmente il direttore abbandona la filarmonica. Claudio Abbado wird die Berliner Philharmoniker verlassen. Claudio Abbado non lavorerà più con i Berliner Philharmoniker. La stampa riporta che Abbado, eletto direttore a vita, non prolungherà il suo contratto che scade nel 2002. Per la prima volta nella storia di quest'orchestra, un direttore rinuncia volontariamente al suo incarico. L'annuncio lascia scioccato il mondo musicale. Cosa è successo? Perché Abbado lascia la squadra campione del mondo della musica classica? Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati, la passione musicale di due grandi direttori d'orchestra, Claudio Abbado e il giovanissimo Gustavo Dudamel, si fonde per dar vita a un incredibile progetto salvifico in cui la musica è protagonista assoluta. È il 2002 e Claudio Abbado ha appena lasciato i gloriosi Berliner Philharmoniker. Una ragione unica non c'è, come sempre, ma forse le ipotesi possono collegarsi a due importanti eventi. Il primo avviene due anni prima, nel 2000, quando una triste notizia serpeggia fra i leggii del Berlina. Il maestro Abbado è molto malato, cancro allo stomaco. Viene operato d'urgenza e l'intervento, nonostante riesca perfettamente, lo lascia prostrato. Insieme a parte dello stomaco perde 17 kg e con essi molte certezze. Si dice che le malattie siano un modo che a volte il proprio fisico ha per imporci una sosta, una riflessione, l'opportunità di riconsiderare il proprio mondo e i propri obiettivi. Anche per il maestro Abbado, la malattia è colei che lo ha costretto a rallentare i ritmi e soprattutto a vedere con maggiore chiarezza cos'è importante veramente nella vita. Abbado ritorna con la mente agli anni entusiasmanti in cui avere ideali, valori, significava impegnarsi nella società e nella diffusione della cultura. Anni in cui le nuove generazioni rappresentavano l'investimento che il mondo maturo faceva sul futuro. Ma guardandosi intorno, non riconosce nulla di tutto ciò nell'Europa che si è appena affacciata al terzo millennio. Ma altrove esistono paesi dove la musica, la sua amatissima musica, ha una valenza sociale enorme e dove i giovani vengono istruiti all'entusiasmo e alla speranza. Il Venezuela. Si parla dell'orchestra del Venezuela, per esempio. Si dice, ah, questi giovani che bravi, come suonano bene. Ed è vero, suonano molto bene. La diversità dalle altre orchestre giovanili è che questi qui sono giovani presi dai barrios, dalle strade, a cui hanno dato una ragione di vita, dando loro degli strumenti e la possibilità di studiare e di far musica, insomma, di far musica insieme, cosa che è unica al mondo. Il secondo evento importante è l'incontro di Abbado nel 1999 con il giovanissimo direttore dell'orchestra giovanile Simon Bolivar, Gustavo Dudamel. Grazie a questo incontro, Abbado ha sentito nascere e svilupparsi anche in lui una nuova ragione di vita, un desiderio di ricominciare dopo la malattia, con idee e progetti rinnovati. Forse, per quanto possa sembrare incredibile, in questo particolare momento della sua vita, il venerato maestro Abbado si sente molto più vicino a questi ragazzi di strada venezuelani che agli accademici musicisti di fama mondiale. Anche lui, come essi in fondo, cerca un'altra chance. Vedere Dudamel dirigere con foga e passione i ragazzi della sua orchestra, la maggior parte dei quali sono sotto i 25 anni, infonde ad Abbado la forza per ritornare sul suo antico progetto di formare orchestre giovanili anche in Europa e in Italia. Abbado aveva già formato nell'86 la Gustav Mahler Jugendorchester, a cui seguono sull'esempio della Simon Bolivar la Chamber Orchestra of Europe e la Mahler Chamber Orchestra, con cui si esibisce nei teatri più importanti. C'è non soltanto un fatto culturale, c'è un fatto sociale di aiutare i giovani a poter avere quello che, a cui hanno diritto tutti. Anche per Gustavo Dudamel il rapporto con Abbado è prezioso. Lo ammiravo da tempo, sia per la qualità del suo genio, sia per l'uomo e il suo grande cuore, testimoniato dall'impegno a favore del progetto venezuelano. È l'inizio di una collaborazione che coinvolge attivamente entrambi i direttori, in tutti questi anni, in uno scambio di ospitalità prolifico per entrambi. Dudamel intanto alterna i suoi impegni con l'orchestra Simon Bolivar con incarichi sempre più importanti. Dopo aver vinto giovanissimo nel 2004 il prestigioso concorso per direttori d'orchestra Gustav Mahler, inizia a suonare con grandissime orchestre in tutto il mondo, fino ad approdare nel 2009, a soli 28 anni, alla direzione della Filarmonica di Los Angeles, che gli organizza una strepitosa accoglienza, realizzando una trasmissione di benvenuto presentata addirittura dall'attore Andy Garcia. Welcome, Gustavo! Bienvenido a Los Angeles. Welcome, Gustavo. Welcome, Gustavo. Gustavo, welcome to Los Angeles. Welcome, Gustavo. Welcome to our town. Welcome, Gustavo. La presidente della Filarmonica di Los Angeles, Deborah Borda, ha fortemente voluto Dudamel alla direzione d'orchestra. Gustavo ha l'abilità di comunicare cosa c'è di vitale ed appassionato nella musica in un modo moderno, da ventunesimo secolo. La sera del debutto alla Filarmonica di Los Angeles, Dudamel tiene un discorso di ringraziamento semplice e toccante. È molto importante considerare il nostro continente unito. Non esiste più il nord, il sud, il centro. Esiste un'unica grande America. La fama non ha cambiato Gustavo Dudamel. Los Angeles è una città enorme che presenta caratteristiche purtroppo simili al Venezuela quando si tratta di degrado e violenza. Dunque è un territorio perfetto dove applicare il sistema. Now we will start a project. Adesso inizieremo un progetto con i giovani delle comunità più povere di Los Angeles. Anche Claudio Abbado non è cambiato nella sua vera essenza, restando sempre l'uomo meraviglioso che negli anni 70 dava concerti nelle fabbriche e che oggi ha fatto innamorare persino Roberto Benigni, con il quale anni fa ha inciso una splendida versione del Pierino e il Lupo di Prokofiev. Ho avuto proprio il privilegio raro di abbracciare, come si può chiamare Abbado, come lo si può definire, quando lo si bacia è come baciare un contrappunto, si muove tutto, è come abbracciare un crescendo, un rallentando, è proprio l'immagine della musica. Il nuovo corso nella vita di Abbado lo vede solo più focalizzato riguardo a quello che è giusto, nell'impegno nei confronti di un progetto che non sia solo una macchina per far soldi. E nei giovani venezuelani che partecipano al sistema, Abbado scorge questa possibilità. Oggi il maestro trascorre almeno 2 mesi l'anno in Venezuela a lavorare con e per i ragazzi. A Dudamel lo lega un rapporto di stima e comunione di intenti, in cui non c'è posto per la gerarchia e l'autoritarismo, ma solo un meccanismo di vasi comunicanti, dove il vecchio insegna al giovane e il giovane insegna al vecchio. In mano loro e dei ragazzi salvati dal sistema di Abreu, le armi sono state trasformate in strumenti. La violenza ha ceduto il passo alla gioia e all'entusiasmo. Abbado e Dudamel sanno che non tutti i ragazzi che imparano a suonare diventeranno concertisti di rango, ma in questi anni all'interno del sistema i giovani soprattutto imparano dignità e coscienza di sé, bisogno di evolversi e di stimarsi. Una lezione fondamentale per assicurarsi un futuro onesto. Ad anni di distanza, Abbado ricorda ancora la lezione del nonno materno sul potere della cultura, forse perché è riuscito ad applicarla durante tutto il corso della sua vita. In Italia è un paese di grandissima cultura, però delle volte la cultura per certe persone al governo non rende, invece bisogna capire che la cultura è una cosa che arricchisce tutti, che può arricchire anche i più poveri, i più ricchi, tutti quanti. La cultura è arricchimento, scambio, speranza. La musica, per la sua universale capacità di comunicare e di mettere in relazione persone diversissime fra loro, lo è ancor di più. Lo testimoniano tutti i ragazzi che nel mondo sono stati salvati da quelle sette note. Left my spirit unfed for too long. I'm coming home to my family where I can be strong. Be who I plan to be. Within me, my ancestry giving me continuity. Would it be remiss to continue in this way? Would you rather I quit? Come with that other shit, making people hip sway. Lip service I pay, but I'm nervous. I pray for all the mothers who get no sleep. Like a lifeline, I write lines, 'cause my compassion is deep for the people who fashion me, my soul to keep. And this is who I happen to be. And if I don't see that I'm strong, then I won't be. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.